Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. E buongiorno anche per questo martedì 21 gennaio, siamo sempre più dentro la settimana che precede le elezioni cruciali dell'Emilia Romagna, quindi aumenta anche la propaganda e aumentando la propaganda aumentano anche le caricature sovraniste della nostra regione. Ma detto questo, noi cominciamo subito come sempre con Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Yemen, attacco Houthi, 111 soldati uccisi, immediata la risposta dell'esercito yemenita. Iraq, 4 manifestanti uccisi, decine di feriti. L'Ucraina chiede all'Iran le scatole nere dell'aereo abbattuto e Stati Uniti testimonieranno per la prima volta i due psicologi che hanno progettato il programma di tortura della CIA. Afghanistan, la nazione più letale per i giornalisti. Ancora India, una catena umana da 50 milioni di persone. WWF, 1 miliardo di animali sono morti durante gli incendi. E Cina, nuovo virus, conferma la peggiore delle ipotesi, trasmissibile da uomo a uomo, paura in vista del capodanno cinese. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dallo Yemen. Almeno 111 soldati yemeniti sono stati uccisi e dozzine di altri feriti sabato nella provincia di Ma'arib, nello Yemen centrale, quando i ribelli sciiti Houthi hanno lanciato un missile contro un sito di addestramento militare. Alcune stime indicano che sono stati feriti anche un centinaio di militari e i funzionari affermano che si aspettano che il bilancio delle vittime, che è già quasi triplicato dalle dichiarazioni iniziali, continuerà a salire. Intanto l'esercito yemenita avrebbe distrutto un battaglione Houthi e ucciso diversi leader, hanno annunciato stamattina le forze armate yemenite, parlando del fronte di Nam a est della capitale Sana, facendo notare che decine di Houthi sono stati uccisi e feriti. Secondo una fonte militare, l'esercito ha ucciso il leader del battaglione Jaber al-Muyad e il leader Houthi Yahya Muhammad Nasser Fadil, che a quanto si dice era ufficiale di reclutamento per il fronte Nam, insieme a dozzine di membri della milizia Houthi. Iran, parlando all'agenzia di stampa ufficiale, il ministro degli esteri Zarif ha messo in guardia le 3 nazioni dell'Unione Europea che sono partner dell'accordo P5+1 contro il proseguimento del loro comportamento improprio relativo al programma nucleare civile dell'Iran. EU3, Gran Bretagna, Francia e Germania hanno attivato il meccanismo di disputa dell'accordo la scorsa settimana. Alla fine è stato rivelato che gli Stati Uniti li avevano costretti a farlo, minacciando di imporre tariffe sulle auto europee se avessero rifiutato. Zarif li ha avvertiti di non andare oltre, in particolare di non inviare il file sul programma al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dicendo che l'Iran avrebbe risposto ritirandosi dal trattato di non proliferazione nucleare. Zarif ha anche detto che non parteciperà al summit economico di Davos perché gli organizzatori hanno cambiato all'improvviso la sua agenda. Intanto l'Ucraina ieri ha chiesto all'Iran di restituire le scatole nere dell'aereo passeggeri abbattuto dai militari iraniani, provocando la morte di 176 persone a bordo. Il ministro degli esteri Vadim Pristaiko ha dichiarato che la restituzione delle scatole dimostrerebbe che l'Iran è impegnato in un'indagine imparziale sulla tragedia dell'8 gennaio. Iraq, il parlamentare Badr al-Ziyadi, membro del Comitato parlamentare per la sicurezza e la difesa, ha detto che il governo starebbe pianificando di inviare delegazioni in Russia, Cina e Ucraina per discutere dell'acquisto di moderni sistemi missilistici di difesa aerea per proteggere il suo territorio da ogni possibile atto di aggressione. Intanto a Baghdad tre manifestanti sono stati uccisi, due di loro da colpi d'arma da fuoco, uno di loro era un giornalista, 14 agenti della sicurezza sono rimasti feriti durante le proteste, almeno 60 i manifestanti feriti. Un altro manifestante è stato ucciso a Bassora, altri due a Bakuba e ancora un altro a Kerbala quando la sicurezza ha aperto il fuoco contro i manifestanti per disperderli, una decina sono rimasti invece feriti. A Nasiriyah uomini armati sconosciuti hanno ferito altri sei manifestanti. Ieri sera due razzi sono stati lanciati contro la zona verde. Libano, dopo tre mesi la protesta diventa violenta. L'ex premier Saad al-Hariri, che si è dimesso alla fine di ottobre nel mezzo della crescente ondata di sentimenti antigovernativi, ha rotto il suo silenzio e ha chiesto la rapida formazione di un nuovo governo per affrontare le terribili condizioni economiche del paese ed evitare di aumentare la rabbia. Le proteste sono iniziate il 17 ottobre, quando sono state imposte nuove tasse per contribuire a coprire il debito del paese. Le manifestazioni sono state relativamente pacifiche, persino festive, ma hanno preso una svolta violenta nel fine settimana, con quasi 400 feriti solo domenica sera. I manifestanti hanno rotto vetrine, bruciato barricate, lanciato pietre e fuochi d'artificio contro i soldati e la polizia. Le forze di sicurezza, a loro volta, hanno usato la forza per fermarli. Egitto, ad aprile saranno tre anni di stato d'emergenza, con il governo che ha annunciato che lo prolungherà di altri tre mesi a partire da lunedì della prossima settimana. Il paese nordafricano in stato di emergenza dall'aprile 2017, quando vennero attaccate due chiese copte in parte di un gruppo affiliato allo Stato Islamico e dove morirono 40 persone. L'estensione arriva nove anni dopo la rivolta del gennaio 2011 che ha rovesciato l'ex presidente Hosni Mubarak, che aveva governato per decenni con lo stato di emergenza. Libia, siamo solo cautamente ottimisti, ha twittato Al Jazeera citando il premier al-Sarraj che parla del generale Haftar e dell'incontro di Berlino. Per Sarraj la controparte non rispetta gli impegni e non abbiamo un vero partner per avanzare in un processo di pace in Libia. Sarraj ha detto di voler rispettare le conclusioni della conferenza di Berlino e il cessate il fuoco, ha aggiunto che non parteciperà ad altri colloqui con il generale. I due hanno seguito i lavori da sale diverse, non hanno partecipato alla tavola rotonda. Per Mosca il fine settimana berlinese è stato un importante passo avanti, mentre il presidente turco ha precisato che, visto che sono coinvolte le Nazioni Unite, non è corretto che l'Unione Europea intervenga come coordinatore del processo. La Turchia, ha precisato Erdogan, non ha mandato truppe, solo addestratori e consiglieri militari finora in Libia. Sul fronte la situazione resta instabile, si sono registrati combattimenti a sud di Tripoli in violazione della tregua non lontano dal cimitero di Adba Cita, un canale legato ad Al-Arabiya. I 22 uomini più ricchi del mondo hanno più ricchezza di tutte le donne dell'Africa messe insieme, secondo un rapporto Oxfam svolto a evidenziare la disuguaglianza globale e l'economia sessista. Il rapporto annuale sulla disuguaglianza di Oxfam, chiamato Time to Care, è stato pubblicato in coincidenza dell'inizio del World Economic Forum a Davos in Svizzera e delinea una serie di fatti che richiamano l'attenzione sul crescente divario tra le persone più ricche e più povere del mondo. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Kosovo e Serbia hanno accettato di riprendere i voli diretti commerciali dopo due decenni di intervallo, firmando un accordo mediato dagli Stati Uniti in un tentativo di spingere i due ex nemici a normalizzare le relazioni. I voli diretti furono interrotti nel 98 quando scoppiò la guerra in Kosovo tra ribelli etnici albanesi e forze di sicurezza serbe. La Serbia ha perso il controllo del Kosovo dopo i bombardamenti della NATO del 99. Per scacciare le forze serbe, ponendo fine a una controinsurrezione in cui furono uccise più di 13.000 persone, principalmente albanesi del Kosovo. Russia, il presidente Putin ha presentato al Parlamento, la Duma, il progetto di legge che modifica la Costituzione. Afghanistan, 4 anni fa 7 dipendenti del Mobi Group, una delle più grandi compagnie mediatiche dell'Afghanistan, sono stati uccisi in un attentato dei talebani a Kabul. Ma dal 2016 l'Afghanistan rimane il paese più mortale per giornalisti, operatori media, secondo coloro che lavorano nel settore. I dati delle organizzazioni di sicurezza dei giornalisti mostrano che 56 giornalisti e operatori sono stati uccisi in diversi incidenti dal 2016. India, 50 milioni di persone, la metà dei residenti dello stato di Bihar, si sono presi per mano formando una catena lunga 18 chilometri per creare consapevolezza ambientale e sradicare i pregiudizi sociali, a controllare 7 elicotteri e centinaia di droni. Filippine, è vietato tornare a casa, è trascorso una settimana da quando il vulcano Taal ha cominciato ad eruttare e 110.000 persone sono state costrette a evacuare a 14 chilometri di distanza dalla montagna. Si teme un'esplosione più grande, anche se ora sembra che il vulcano si sia calmato. La Cina ha annunciato una quarta vittima, un 89enne, circa 200 nuovi casi del virus simile alla SARS. Preoccupazione in vista del Capodanno cinese venerdì, che farà spostare milioni di persone e aumentare il rischio di contagio. Il focolaio è partito da Wuhan nella Cina centrale, ma è stato intercettato anche in Giappone, Filippina e Corea del Sud. Il capo del gruppo di esperti del governo cinese ha affermato che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata nel nuovo coronavirus, la peggiore delle ipotesi possibili. The World Health Organization will hold an urgent meeting to decide whether to declare a global emergency. La notizia arriva mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità pianifica un comitato di emergenza di esperti per valutare se l'epidemia costituisce un'emergenza internazionale. Il leader del team, si legge sulla Reuters, Zhong Nanshan, esperto respiratorio, ha detto che 2 persone nel Sud hanno preso la malattia da membri della famiglia. Numerose nazioni stanno adottando misure di screening per i viaggiatori che arrivano dalla Cina, in particolare quelli della città centrale di Wuhan. L'Australia, per esempio, riceve un numero significativo di viaggiatori della Cina, tra cui 3 voli diretti a settimana da Wuhan a Sydney. Anche Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e altri paesi e regioni con estesi collegamenti di viaggio con la Cina stanno adottando misure di screening più rigorose. Almeno 3 aeroporti statunitensi hanno iniziato a controllare i passeggeri delle compagnie aeree in arrivo dalla Cina centrale. Australia, scene apocalittiche continuano a emergere dove gli incendi boschivi stanno devastando il paese. Oltre 10 milioni di ettari di terra sono stati bruciati, un'area delle dimensioni della Scozia, decine di persone sono morte, migliaia di case sono state distrutte, oltre 1 miliardo di animali sono morti, eppure i fuochi sono tutt'altro che finiti, continueranno a imperversare fino a marzo, ha spiegato Stuart Blanche del WWF. Stati Uniti, migliaia di attivisti per i diritti alle armi si sono radunati al Virginia Capitol lunedì sotto una forte presenza di polizia, protestando contro i piani della leadership democratica dello Stato per approvare la legge sul controllo delle armi. La dimensione della manifestazione, la prevista partecipazione di suprematisti bianchi e gruppi di milizie marginali avevano sollevato timori che si potesse assistere a una ripetizione della violenza esplosa nel 2017 a Charlottesville, ma la manifestazione si è conclusa senza problemi intorno a mezzogiorno. Testimonieranno i 2 psicologi che hanno creato il programma di tortura della CIA, tecniche che includono il waterboarding. La speranza è che il processo faccia luce sull'ampiezza del programma. James Mitchell e Bruce Jessen risponderanno alle domande in un'audizione preprocessuale sugli attacchi dell'11 settembre davanti a un tribunale militare nella baia di Guantanamo. Gli avvocati degli imputati, che sono tra i 40 detenuti nel campo di prigionia sull'isola di Cuba, affermano che sarà un'occasione unica per tenere conto dei responsabili dell'approvazione dello svolgimento dell'uso della tortura e dimostrare che entrambi, la CIA e l'FBI, furono complici delle torture con implicazioni significative per qualsiasi processo futuro sui sospetti pianificatori dell'11 settembre. Mitchell e Jessen erano ex psicologi dell'aeronautica incaricati dalla CIA nel 2002 di stabilire un programma di di tecniche di interrogatorio duro. Sono stati pagati $1,800 al giorno e nel 2005 hanno costituito una società privata che ha fornito la maggior parte degli interrogatori e la maggior parte del personale di sicurezza nei siti neri, strutture segrete di detenzione. La società è stata pagata $81 milioni per i suoi servizi prima che il contratto fosse sciolto nel 2009. Honduras, il governo ha formalmente dichiarato il gruppo libanese filo iraniano degli Hezbollah un'organizzazione terroristica. Il gruppo sciita è considerato terrorista anche dagli Stati Uniti e il Regno Unito. Nel frattempo il presidente del Parlamento venezuelano Guaidó si è unito a diversi leader di diversi stati latinoamericani e agli Stati Uniti nel condannare il presidente Maduro come un promotore del terrorismo. Guaidó era in visita in Colombia per una conferenza di controterrorismo. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie, sempre solo su Radio Bullets. Too much kid. Gang of Four, ma torniamo alle nostre lezioni emiliano-romagnole tratte da un punto di vista ecologista, perché in vista proprio di queste regionali Lega Ambiente ha avanzato le richieste, ha fatto anche delle domande relative all'impegno sul tema ambientale dei candidati alle prossime elezioni. L'associazione ambientalista ha anche pubblicato un resoconto su quale risposta ha ricevuto. Abbiamo intervistato allora Lorenzo Mancini, direttore di Lega Ambiente Emilia Romagna, sentiamo le sue parole. Diciamo che le proposte si sono poi sintetizzate in 6 punti complessivamente, che sono fondamentalmente 6 punti che convergono tutti sull'obiettivo dell'affrontare quella che è l'emergenza climatica, insomma, per i prossimi 5 anni, visto che sarà una forte responsabilità per chi dovrà governare la regione e saranno chiaramente anni determinanti in quello, rispetto anche a quello che l'IPCC, l'urgenza dell'IPCC ci richiede. Pertanto questi 6 punti vogliono affrontare diverse aree chiaramente di intervento nell'ottica di mitigare gli effetti del cambiamento climatico, a partire appunto dalla mobilità e dai trasporti, quindi sicuramente rivedendo alcune opere che sono previste ad oggi all'interno del PRIT, del piano dei trasporti regionale, ma non solamente, chiaramente nell'ottica di abbandonare certe opere e certe modalità, ecco, di pensare ai trasporti, ma anche più verso opere utili, come ad esempio finire appunto quello che è servizio ferroviario metropolitano e la linea del tram, insomma, prevista Bologna. Sul territorio, anche sul territorio, priorità sicuramente a quelli che sono gli interventi di messa in sicurezza del territorio, quindi una pianificazione delle aree più a rischio rispetto a quelli che possono essere eventi climatici estremi, per passare poi agli investimenti, quindi diciamo stimolare la regione a definire una serie di modalità con cui sottoporre appunto finanziamenti pubblici fondamentalmente, quindi nell'ottica anche qui di andare a disincentivare quelle che sono tutte quelle attività legate più al tema del fossile rispetto invece a azioni necessarie a sviluppare un settore nuovo rinnovabile appunto sul territorio regionale. Da qui appunto l'attività, ci colleghiamo al tema delle attività energetiche, quindi la necessità di sviluppare tavoli di confronto e situazioni in cui si favorisca la transizione energetica. In particolare abbiamo il tema dell'oil and gas del Ravennate, che è un settore fortemente in crisi, e quindi anche ad autotutela proprio di questo settore consentire e favorire quella che è la transizione energetica nel più breve tempo possibile, per poi passare chiaramente a tutte quelle che sono le attività di risparmio energetico, efficientamento di quello che è il nostro patrimonio edilizio, ovviamente nei limiti in cui la regione può intervenire, e infine il settore agricolo, perché comunque in Emilia Romagna c'è un trend in positivo per quanto riguarda l'incremento della quota di superficie agricola utilizzata a biologico, quindi mantenere questo trend, anzi renderlo ancora più rapido, e quindi consentire nel tempo un abbandono progressivo della chimica, oltre alla possibilità anche di raggiungere l'efficienza in termini di autosufficienza energetica del settore agricolo, appunto utilizzando i sottoprodotti che ne derivano, quindi ad esempio sviluppando, progettando impiantistiche legate allo sviluppo del biometano, ecco, sul territorio, che entrano poi nella filiera dei sottoprodotti dell'agroindustria. Rispetto a questi punti ci hanno risposto alcune parti politiche, chi più chi meno in maniera completa. Comunque per il momento abbiamo appunto avuto risposte da Europa Verde, abbiamo avuto le risposte da parte di Emilia Romagna Coraggiosa, Potere al Popolo ha risposto, recentemente poi abbiamo avuto anche un riscontro da parte del movimento 3V, e anche da un candidato della lista di Bonaccini, Pietro Vandini, che rappresenterebbe Italia in Comune, e anche l'altra Emilia Romagna. Infine Volt con un riscontro un po' più generico rispetto alle altre forze politiche. Che col Movimento 5 Stelle ci siamo interfacciati, abbiamo insomma tenuto a mezzo la possibilità di avere un incontro col candidato Benini, però ancora non abbiamo ricevuto delle risposte scritte. Pesano anche però chi non vi ha risposto. Esatto, diciamo che tutto il centrodestra fondamentalmente non è stato attento alle questioni che abbiamo sollevato, perché risposte non abbiamo ottenute, e anche da parte, in questo caso a livello insomma regionale, non abbiamo ottenuto delle risposte da parte del Partito Democratico, anche a seguito insomma di solleciti chiedendo appunto un riscontro. Comunque nel breve periodo, il tempo che ci rimane dalle elezioni, man mano che avremo forze politiche che ci rispondono, aggiorneremo chiaramente le risposte, daremo visibilità insomma di chi sarà risposta. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. I just want to ask a question. Who really cares? Save a world in despair. Who really cares? There'll come a time when the world won't be singing, flowers won't grow, no, no, you know bells won't be ringing. Who is willing to try to save a world that is destined? It fills me with sorrow, children today, really suffer tomorrow. Oh, what a shame. Such a bad way to live. Oh, put it to blame when we can't stop living. Oh, oh, live, live for life. Segna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. 9:33 minuti di questa giornata di martedì 21 gennaio. Beh, cominciamo con il processo che farebbe impallidire Kafka, perché andiamo in una serie di immagini e prima di arrivare a Salvini e la Grigoretti, che è un po' il tema che tiene oggi i titoli dei giornali, passiamo invece per un'altra immagine che penso che tutti abbiamo ben scolpito nella memoria: il signore che timbrava in mutande. Era il nemico nazionale numero uno, era il furbetto del cartellino per l'F maiuscola, F maiuscola, era lo scandalo dei fancazzisti. Oggi leggiamo che era innocente, perché timbrava in mutande e vigile assolto. E allora a questo punto cominciamo a diffidare anche delle immagini, queste icone, questi tormentoni giornalistici che creano i mostri di misura della vendita dei giornali. Per il giudice il fatto non sussiste. Perché non sussiste? Perché lui abitava vicino a questo posto di lavoro e a volte timbrava, poi si vestiva, perché il vestirsi fa parte dell'orario di lavoro, nel contratto, e poi andava a lavorare come doveva. Solo che magari, ecco, magari cattivo gusto, ma da qui a passare al mostro nazionale ne passa, eppure se ne è fatta un'icona. Mutande pulite, dice Massimo Gramellini. Ricorderete il vigile di Sanremo, leggo dal Corriere, ripreso in mente timbrava le cartelline in mutande. Un'immagine tanto dirompente da diventare simbolica, come la gonna di Marilyn Monroe, alle prese col condotto di aereazione. Ebbene, il giudice di primo grado ha assolto l'uomo in mutande con formula piena. Il fatto non sussiste, cioè è completamente innocente. Intendiamoci, la mutanda sussiste come, mica si tratta di un fotomontaggio, ma era una mutanda per così dire legittima. Il suo proprietario strisciava il badge della macchina apposita, situata a pochi passi da casa, e poiché l'atto di vestire la divisa è considerato un'area di lavoro, talvolta vi mandava la figlia oppure ci recava personalmente in déshabillé. Forse avrebbe potuto infilarsi anche una vestaglia, dice Gramellini, ma sono quisquilli rispetto alla sostanza. L'emblema dei furbetti del cartellino sarebbe stato in realtà la vittima di un equivoco colossale. Lui dice... l'ex vigile decise di cambiare lavoro, potevo sprofondare e rimboccarmi le maniche e ho scelto la seconda, dice, si è messo a fare l'aggiustatutto, aprendosi un negozietto che pare funzioni alla grande, sistema frigoriferi, cucine, elettrodomestici in genere. E ora cosa vuol fare? Vorrei tornare alla mia vecchia occupazione. Il sindaco Alberto Bianchieri, una storia che va riscritta, pronta a raccogliere i licenziati. E allora abbiamo però il giornale che non demorde perché parla appunto timbravi mutande vigile assolto, è la colpa dei giudici ovviamente, perché il giornale non va per il sottile e dà voce anche alla GIP, ma l'inchiesta non si è sgonfiata, sono 16 che hanno chiesto di patteggiare. Beh, dire, di fronte a questa pressione mediatica forse quello preferisce patteggiare e chiuderla, anche se magari, ammesso e non concesso, abbia ragione come questo vigile assolto. Ma veniamo a un altro processo che è sempre della serie dagli addosso, le croci addosso alla gente. Clandestini assolte, il giudice bocciato, cronaca milanese. Da rifare 8 processi in serie, in Cassazione. Tra febbraio e marzo 2019 sono 8 stranieri irregolari sottoposti a decreti di espulsione che hanno però rispettato il finiscono sotto processo. Il mancato abbandono del suolo italiano entro 7 giorni è punito dalla legge con una multa da 10 a 20 mila euro. Quindi dai addosso al poveraccio, eh? Ma tutti e 8 però vengono assolti dal giudice di pace perché il fatto non sussiste. La condizione di emarginazione, l'ho usato così nella sentenza, e la tesi li porta a non sapere che stanno commettendo reato. Il procuratore generale della Corte di Cappello di Milano ha fatto ricorso, la Cassazione ha stabilito che i processi vengano rifatti assolutamente. Ecco, questo per dire attenzione, prima di buttare la croce addosso a qualcuno, e soprattutto quando sono le immagini come il vigile mutande, perché le immagini sono le prime a mentire. Sì, magari il vigile poteva aprire un negozio di lingerie, ma bando alle facili ironie, mi ruba appunto la citazione Alfredo, perché il processo più vicino alla realtà kafkiana è appunto quello che troviamo su tutte le prime pagine, per non parlare poi di Sanremo che diventa protagonista invece sul Carlino con altre realtà di cui non parleremo, mentre invece i titoli principali sono assolutamente da prendere come dalla stampa da Repubblica, arrivando al Manifesto. Cominciamo da Repubblica. Processate Salvini, firmato Salvini. Gregoretti, la maggioranza lascia la giunta, soltanto la Lega vota sì all'incriminazione del proprio leader. Lo stesso Fatto Quotidiano metterà una prima pagina quanto mai esplicita con un Salvini vestito da clown. La Stampa allo stesso modo, Gregoretti, Salvini sceglie la strada del processo. Andiamo in approfondimento dalle prime pagine dei due quotidiani che vi ho citato. Da pagina 2 di Repubblica, caso Gregoretti, Salvini si manda a processo da solo, il partito dell'ex ministro vota in giunta al Senato l'autorizzazione a procedere, il no di Forza Italia e Fratelli d'Italia non basta, la maggioranza lascia i lavori e denuncia l'uso politico della giustizia e delle istituzioni, i suoi paragoni che farà con Silvio Pellico e altri personaggi diventeranno quanto mai più paragonabili alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che lo rivede in maniera circense. L'ironia di Di Maio è passato dal sovranismo al vittimismo. Control di Neleghi, basta salsicce, si digiuna. Dopo anni di tweet gastronomici, il leader chiede ai suoi lo sciopero della fame. Si tratta tagliatelle e cotechini, i sovranisti improvvisamente si ritrova in maniera di protesta con la richiesta di uno sciopero della fame ai suoi. Il referendum in Emilia e vincerò, l'ex ministro finge di esultare, dice Repubblica. Troveremo poi questo argomento che sarà motivo di approfondimento assolutamente importante vicino a noi. A pagina 4, Gregoretti, parliamo di cose serie, molto, gridavano, imploravano aiuto quei 135 in ostaggio del Viminale. per 5 giorni, migranti trattenuti sulla nave che, essendo della Guardia Costiera, è territorio italiano. Ecco come nasce l'accusa a Salvini. Le tappe vengono riprese, spesso dimenticate, i soccorsi, il trasbordo, l'attesa. Viene fatta scendere solo una donna incinta e la sua famiglia. Poi la nave viene mandata da Augusta, ma non ottiene l'ok allo sbarco. L'ispezione è il 30 luglio, il procuratore di Siracusa invia i medici a bordo, vengono riscontrate malattie infettive e condizioni critiche. Lo sbarco, il 31 luglio, il PM chiede che vengano fatti scendere i migranti e il Viminale dà l'ok, quindi i giorni che sono passati li abbiamo già visti in questa cronologia che mette la realtà di Repubblica e una realtà grave per i migranti che hanno vissuto giorni di paura, giorni in condizioni disumane. Intanto passo alla Stampa, mossa per infiammare la campagna in Emilia, Bibbiano si prepara al flash mob di Santori, all'interno dello stesso titolo principale di cui parleremo. Intanto sì del Carroccio in giunta, ora decide il Senato. Sono tra le prime realtà prese in considerazione, come vi ho detto, da Repubblica e anche dalla Stampa, che va in approfondimento. Causo Gregoretti, alla fine è la Lega che dà l'ok al processo Salvini. La maggioranza è rimasta col cerino in mano, ora il leghista ha un'arma elettorale, dice la Stampa. Chiudiamo questa parte con il Manifesto, lo mette sotto la testata come titolo: Salvini si fa mandare a processo, caso Gregoretti, la maggioranza non partecipa al voto. Riporta l'approfondimento a pagina 4 che raggiungo, sempre dal Manifesto chiaramente, per quanto riguarda questa argomentazione, e troviamo appunto sul Manifesto: processate Salvini, la maggioranza diserta la riunione della giunta, i leghisti votano contro la relazione Gaspare come chiesto dal loro leader, le dichiarazioni PD vigliacco, in tribunale ci porterò anche Conte, questo è Salvini, la risposta fa la vittima per dimenticare che il governo ha tagliato le tasse, Nicola Zingaretti la risposta, le immagini che troviamo a centro pagina, da pagina 4 a pagina 5 appunto, vedono sia il leader leghista che Nicola Zingaretti. Vado in tribunale a testa alta in nome del popolo italiano, Matteo Salvini non avrebbe potuto sperare in un finale migliore per la sua campagna elettorale. Libero Tony Roisi, Salvini, arrestatemi, scriverò le mie prigioni. E allora, come Silvio Pellico, lì ci fu Maroncelli che gli tagliò la gamba, qui lui ha Maroni che non so se può fare. Sì, ma forse non erano le mie prigioni, ma erano i miei frigioni, perché se guardiamo appunto la carrellata, Salvini mangia i tortellini, poi li mangia il ragù star, però insomma, e fa la polemica sul tortellino al pollo, ma poi mangia la pizza in un'altra occasione, mangia la Nutella, mangia un'altra pizza. E poi nudo come un verme si fa un barbecue al mare e poi vestito da formaggiaio si mangia il grana padano. Adesso invece hashtag digiuno per Salvini. Altrimenti se non ci fosse, come direbbe Battiato, povera patria di mezzo, ci sarebbe da ridere. E allora Matteo Salvini a processo rischia la galera per avere difeso la patria. Da chi ha difeso la patria? Ricordiamolo. Da degli unni, da Attila? No, da una trentina di persone, migranti, naufraghi, donne e bambini infreddoliti alla sete, che li ha tenuti a bagnomaria, ci fa per dire, perché? Per farci campagna elettorale sopra. E allora vediamo notizie di questa mattina: migranti a Pozzallo all'Ocean Viking, è arrivata ieri nel porto di Pozzallo la nave Ocean Viking dei SOS Mediterranei e con Medici da Frontiere, con a bordo 39 migranti, di cui 19 minori salvati venerdì scorso al largo della Libia. Altra gente che minaccia la patria con P maiuscola. Francia, Germania e Lussemburgo hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere 20 migranti ricollocabili. Ecco, qual è la differenza? Non li ha tenuti 40 giorni, questi qua, prima di ricollocarli, 40 giorni sempre a bagnomaria per farci campagna elettorale, perché altrimenti sicuramente sarà un ministro interno con le elezioni in Emilia Romagna li teneva al largo di Pozzallo. Detto questo, cosa unisce il medico in mutande e Salvini a processo con la Gregoretti? Un'idea per Salvini, dopo aver messo il casco da vigile urbano, il cappello della Ferrari, potrebbe anche... Le mutande tricolori le ho lasciate lì da lei, quando mi ha buttato fuori, ma che dolce uragano che sei. Alzate e fammi un caffè, E questa era Gianni Bella, lasciamo Gianni Bella, le sue montagne tricolori, la politica circense italiana su cui torneremo più avanti, perché ci richiama Davos o Davos, e non per dire che lì la neve esiste, ma per dire che oggi è a Cine per Greta Thunberg da una parte e Trump da quell'altra. Quindi questo almeno è il flash agenzie che arriva in questo momento. Saranno i protagonisti di che cosa? Di questa prima giornata del Forum Economico Mondiale Davos, che quest'anno affronta il tema del capitalismo responsabile. Ah no, Trino Reno, o responsabile o capitalismo, bisogna scegliere, non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, ma andiamo avanti. A parlare per la prima la giovane attivista ambientalista che interviene sul cambiamento climatico e la necessità di un'economia sostenibile, quindi non capitalistica. Più tardi sarà la volta di Trump, che prenderà la parola mentre il Senato nordamericano si aprirà il processo di impeachment a suo carico. 3.000 partecipanti al 50° summit in Svizzera in rappresentanza di 117 paesi. Questa è la notizia flash che arriva da agenzia questa mattina. Ma gli approfondimenti dei giornali, il Fondo Monetario, il mondo è in modesta ripresa, ma salgono le diseguaglianze. Perché il patrimonio di 2.153 ricchi è superiore a quello di 4,6 miliardi di persone. E questo è, mentre un PIL salirà del 3,3%, quindi sarà anche modesta la ripresa, ma dipende per chi. Evidentemente c'è chi è in retromarcia, chi ha non la quinta ma l'ottava marcia. Questo e poi c'è naturalmente anche la messa in scena. Siccome c'è Greta Thunberg, ragazzi che protestano per l'ambiente, cosa fanno? Meno carne, perché no, in questa occasione non mangiano la carne per non creare CO2, ma dico c'è il Corriere, arrivano in jet, ma questo ci mancherebbe che arrivassero in 500, addirittura con una panda metano. Se avete voi il capo di BlackRock che arriva con la panda metana da Davos, quello sarebbe. Comunque. Andiamo l'energia, il mercato è in grado di tenere testa alle tensioni, perché va lì come mangia meno carne ma pensano al petrolio. Il Pulitzer di Yergin, le infrastrutture del Golfo Persico hanno superato gli attentati, i nuovi rischi di futuro per l'energia. Altrimenti sappiamo tutti che si è fatto il summit a Berlino sulla Libia e non sullo Yemen, perché la Libia c'è il petrolio evidentemente. Il futuro per natura sono ottimista, ma ora sono meno tranquillo, il mondo è pieno di nuovi rischi all'orizzonte, inclusi i break up della globalizzazione. E poi abbiamo il giornale Ricordate quando c'era Berlusconi il presidente? No, qualcuno forse non ricorderà perché è passato qualche annetto. Io sì, che ho gli annetti sulle spalle ce le ho. E quando Berlusconi andava a Davos diceva: si trovano i grandi, decidono i grandi della storia, decidono i decidi del mondo. Berlusconi che dà le pacche nel culo a quello, a quell'altro, ah che grande uomo. Oggi invece si è fatto sovranista e protestatario, e allora il tempio dove i ricchi si lavano la coscienza a colpi di banalità pop. Questo è il giornale, non sto leggendo Lotta Continua, ma 50 Davos, il fantasma del Cigno Verde, in arrivo una crisi violenta. E questo in particolare con la politica trumpista che c'è negli USA, ma in tanti paesi, si sta creando un'altra Lehman Brothers moltiplicato per 5, dicono gli analisti che tremano. Il timore della BRI, il clima può minare il capitalismo. Beh, lo so, tra l'altro en passant anche la gente che ci abita, no? Questo è il quadro. Dunque, comunque anche qua si dice che 2000 paperoni hanno più soldi del 60% della popolazione mondiale. Ma non ci sarà anche Berlusconi in mezzo? Ma forse no, forse Berlusconi adesso è fuori perché va alla Caritas. L'ONG Oxfam chiede ai governi misure umane femministe e i governi ci ridono sopra, da quanto sembra. In Italia il patrimonio di 1% supera quello del 70% dei poveri. E poi si dice: no, il problema è il reddito di cittadinanza, no? Perché quello è il problema. Ma andiamo avanti, perché il Cigno Verde. Una volta c'era il cigno nero, insomma, cambiano i colori. Clima, rischio di un cigno verde nella finanza. Appello alle banche centrali per nuove politiche fiscali, monetarie e prudenziali, cioè qui ristretta del credito. L'industria assicurativa non è attrezzata per assicurare l'impatto di un cambiamento violento del clima. Le assicurazioni sono molto preoccupate perché a questo punto alzano troppi premi, la gente non ci sta più, oppure rischiano di pagare delle cifre. Questo nel frattempo, nel forum su Davos, sempre dal Sole 24 Ore che va con la cifra, che è il suo campo preferito, l'FMI abbassa le stime per la frenata degli emergenti. Quindi anche i famosi BRIC, che ci ha fatto parlare per dei mesi, degli anni, adesso è un bric e brac. Ma il sondaggio PVC va a vedere cosa pensano i CEO. Voi dite: chi sono i CEO? Sono i boss, sono quelli che comandano, sono gli amministratori delegati, sono i padroni, insomma, i padroni della finanza. No, chiamiamoli CEO, CEO, che fa ancora più bello in inglese. Secondo la maggioranza dei dirigenti di impresa, crescita più debole nel 2020. Allora, probabilmente prevedendo questa crisi da debole, si aumenteranno gli stipendi, fa sempre così di solito. I manager italiani più ottimisti sul futuro dell'azienda in una prospettiva temporale di 3 anni. Oppure tagliano dei dipendenti, questa è abbastanza una conseguenza che va a braccetto con la crescita debole, no? Intanto mi continuo a leggere da pagina 6 con la Repubblica per arrivare alla Stampa e concludere con le parole del Manifesto a proposito di Davos, la svolta ecologista tra affari e ipocrisie, aspettando Trump e Greta al World Economic Forum tiene banco l'ambiente, ma la giovane attivista è malata, in forse la sua presenza di oggi, riporta pagina 6 Repubblica. Davos è quel posto dove i miliardari spiegano ai milionari come pensa la classe media, alzando gli occhi al cielo. L'immarcescibile capo di JP Morgan e di JM Dimon aveva stroncato qualche anno fa il rapporto sui rischi globali del Forum Economico Mondiale con una frase effetto, cerchiata tra un appuntamento e null'altro. Ma all'esclusiva kermesse annuale tra le montagne incantate svizzere, fondate 50 anni fa dal tedesco Schwab, con un pugno di soldi presi in prestito dal padre. Il banchiere newyorkese adora partecipare. Anche quest'anno ci sarà, ovvio, come miliardario che spiega ai milionari come ragiona la classe media. Del resto Bertolt Brecht avrebbe preferito rapinare una banca che fondarne una. Non era un uomo pieno di contraddizioni? Chissà quanto avrà alzato gli occhi al cielo Jamie Dimon leggendo che quest'anno il forum ha tinto di verde i 5 maggiori fattori di rischio per il futuro del pianeta. E quindi lo vediamo anche nella prima pagina a suo modo di La Stampa, quotidiano torinese. Trump porta a Davos l'agenda per la sua rielezione e va in approfondimento. Davos, l'agenda di Trump, economia, commercio e NATO, porta questo. Il presidente degli Stati Uniti punta sul World Economic Forum per rafforzare la sua posizione e ottenere la conferma a novembre. Il punto centrale del suo intervento di oggi sarà sottolineare la stabilità e le polemiche dei democratici che lo minacciano. Il capo della Casa Bianca pronto anche all'affondo, va da sé, contro Bruxelles. Intanto negli Stati Uniti d'America, forza di seminare questi contenuti, nascono dei frutti amari, come diceva Billie Holiday. In Virginia sfilano i pro-armi, nostro diritto è l'autodifesa, in piazza e gru- gruppi di estrema destra provenienti da tutto il paese. Qua ritratti due partecipanti alla marcia per il diritto di armarsi. Siamo in Virginia, poi vediamo, no, il diritto di armarsi è quello che succede negli Stati Uniti d'America, ma non solo negli Stati Uniti d'America. Lasciamo la Stampa, concludo come vi ho detto con il Manifesto. Senza eguali. Basterebbe la fotografia, l'immagine di una netta dicotomia tra una baraccopoli e una metropoli lussuosa. A distanza di pochi centimetri, si può dire più che di pochi metri, perché sono veramente confinanti le pareti. Aumentano le disuguaglianze nel mondo, 2000 super ricchi detengono una ricchezza superiore a quella posseduta da 4,6 miliardi di persone. In Italia non va meglio, secondo il rapporto Oxfam, gli ultimi 20 hanno distrutto l'equità sociale e oggi il Davos, il forum dei paperoni. Pagina 2, pagina 3, ricordo il Manifesto lo tiene come argomento principale, il lavoro di cura non pagato è il motore del capitalismo, verissimo. Alla vigilia di Davos a Oxfam, il Repubblica e il rapporto Time to Care, la denuncia della disuguaglianza più clamorosa della storia. La ricchezza di 2.153 miliardari oggi pari a quella del 60% di tutta la popolazione. Beh, questo lascia appunto dello spazio alle riflessioni che dobbiamo fare e soprattutto a una disuguaglianza veramente molto molto in crescita. Povertà e crescita, il quadro italiano è disastroso, è l'articolo dalla prima pagina di Luigi Pandolfi che riporta l'attenzione a casa nostra, dove sicuramente queste disuguaglianze non sono minori. La vita dei super ricchi oggi dipendono dallo sfruttamento delle donne ridotte all'invisibilità. Chiudo con Greta Thunberg, ci sarà anche Greta Thunberg al 50° vertice sulle Alpi svizzere e l'eco negazionista Trump. Allora, è significativo che i due giornali che aprono su Davos su queste disuguaglianze, uno è il Manifesto e l'altro cos'è? L'Avvenire. Ormai siamo la sinistra in questo momento, perché l'Avvenire apre con il mondo diseguale, ancora non cambia. Quindi, e poi appunto riporta questa disuguaglianza in crescendo. Torniamo alla pagliacceria italiana. Però prima di venire all'Emilia Romagna, che è un po' il capitolo di questo momento della nostra stampa, passo da Asti, perché si prevede un esodo di massa di poveri italiani. Perché leggo il sindaco di Asti: niente cittadinanza chi non sa l'italiano. Allora. E lì c'è un disagio. Alla prima domanda sul congiuntivo, una strage di permessi di soggiorno per italiani di ottava generazione, da sempre. Dunque l'appello dei colleghi del sindaco di Asti, naturalmente un leghista, va da sé. E viene amplificato come uomo di grande saggezza dal giornale. Il primo cittadino scrive all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani: come fanno a rispettare le nostre leggi? E quindi, siccome non le sanno, diamogli addosso. Questo è il quadro. Comunque, ben da qui veniamo a... Ieri ho visto la Borgonzoni intervistato nella sua campagna elettorale e i punti salienti della sua campagna elettorale di merito era: tagliamo la burocrazia che impedisce alle nostre aziende. Non vuol dire niente tagliare la burocrazia, cioè, però l'ha detto e lo c'è con una faccia seria molto convincente. Purtroppo il mondo del lavoro non l'ha ripagata come meritava, perché leggo dal Corriere di Bologna: duella al CNA, i fischi e le scuse, la Borgonzoni è attaccata sulla sanità, la platea la contesta. Il leader degli artigiani dice: mi dispiace. La Bonaccini: la sfida, ti faccio vedere i dati. Perché cosa dice la Borgonzoni? Un'altra topica: gli emiliani vanno a curarsi nelle altre regioni. Ora, tutti sanno che molto spesso abbiamo un surplus di ricoverati nei nostri ospedali perché arrivano da regioni in cui c'è meno sanità pubblica e meno efficienza, e quindi è proprio di quelle sciocchezze che solo una propaganda, la Goebbels, cioè che le cose ripetute all'infinito sembrano comunque vere anche se sono assolutamente false, può funzionare, ma lì non ha funzionato. Dunque finisce tra le polemiche con una contestazione condita da qualche fischio a Lucia Borgonzoni. Il confronto tra i candidati della presidenza della regione è coordinato dal CNA regionale. L'attacco alla sovranità non è stato gradito dalla platea. Il presidente degli artigiani si è scusato con la Borgonzoni. Questo è nel merito. Poi il Corriere della Sera di Bologna, che sto leggendo, per l'ennesima volta fa un po' l'analisi del voto in Emilia Romagna, almeno nelle previsioni, ovvero sia le città sono più fortemente orientata per il centro-sinistra e per il blocco di di Bonaccini, mentre qui si legge la montagna dimenticata che vota per il capitano, e si parla appunto dei soliti dati dolenti che mettono solitudine, fa sì che magari molto spesso anche gli stessi operai votino a destra per una disperazione, perché per esempio si parla della DEM altri 2 mesi, poi chissà, la lunga agonia della Dema andrà avanti almeno fino ad aprile, così conferma la cassa integrazione siglata ieri in regione. E questa, la FIA dell'Appennino, è un'altra situazione di quella che è stata abbandonata a se stessa da tanti governi, sono seguiti da una classe imprenditoriale che prende i soldi e scappa. Questo è quanto. Zingaretti e la volata in Emilia, dice la pagina del Corriere della Sera, ma se perdiamo il governo tiene. E molti leggono questa cosa come una sorta di mettere le mani avanti. Voglio ricordare comunque, per chi domenica sera starà un po' così in ambascia a ascoltare i risultati elettorali, che non mancherà la nostra maratona elettorale, che collegandoci con le cose locali nostre, ma anche con le varie TV eccetera, cerchiamo di dare una nostra lettura dei dati, belli o brutti che siano. Il segretario PD ottimista, tra i 5 Stelle una spinta verso il centro-sinistra, tutti i big in campagna. Tra i 5 Stelle, ma c'è tutto e di più, perciò è una sorta così scheggia impazzita a questo punto. Lo affronta questa scheggia impazzita da Luca De Carolis, dal Fatto Quotidiano. Il nodo della collocazione a sinistra? Di Maio è al bivio, decide se lasciare guerra interna sul PD. A giorni, se non a ore, il capo politico comunicherà la sua scelta di dimettersi o meno. Quindi il Fatto Quotidiano ci aveva preso quando aveva anticipato questa cosa tra lo scandalo generale. I 5 Stelle sono in pieno congresso, se si parla di un congresso, di chi non si definisce neanche un partito ma un movimento, comunque a questo punto questo è un dettaglio. Patuanelli rilancia, il ministro, sta a Luigi scegliere cosa fare, ma serve una leadership più diffusa. Il nodo degli espulsi, per le istituzioni rischiano grosso i 2 senatori, previste 15-20 sospensioni, quindi mentre si discute se dove va il governo eccetera, in realtà c'è tutta una situazione per cui si sta lavorando, i 5 Stelle passano a miglior offerente, e questo è forse il rischio maggiore tra i tanti che corre questo governo. Sì, mi riallaccio a pagina 3 della Stampa, dove a proposito di Emilia vediamo un Salvini tutto contento e il titolo stesso ribadisce: tra maiali, meloni, ma meloni in questo caso il frutto, e doppiette, l'Emilia rurale spinge Salvini. Siamo un po' nel Texas d'Italia, della regione meglio dire. Risultati dell'Europea, Mirandola addirittura, Pavullo nel Prignano, a Concordia sulla Secchia, siamo nel Modenese e nella provincia. Vediamo come un po' in tutte altre realtà, negli Stati Uniti d'America, nei grandi centri, Trump non ha avuto il riscontro che ha avuto nella campagna, non so, Virginia, Indiana, Alabama, e così si ripetono i contenuti. Perché qui da noi cresce la Lega? C'è voglia di cambiamento. Michele esce dalla libreria edicola di via Giovanni Pico con la Gazzetta di Modena in mano e si infila in macchina. Dopo 74 anni di PC e PD, permette che si abbia voglia di qualcosa di diverso. Proviamo, no? E guarda che io prima votavo a sinistra, ce ne sono diversi che ragionano così. La signora Gemma lavora in banca ed è in pausa caffè dall'altra parte del bancone, barista, baffi corti e biondi con un ciuffo viola, ci invita a guardare quanti, che bei baffi, edifici sono ancora in ricostruzione dopo il sisma del 2012. Usciamo per le vie di Mirandola, andiamo a vedere, molti palazzi sono nuovi, alcuni in piena lavorazione con le gru che ruotano sui tetti. Il Duomo è come nuovo di zecca, ma c'è ancora molto da fare dopo quel terremoto che causò 28 morti e lo sfollamento di 45.000 persone tra Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia. Oggi oltre 15.000 famiglie sono rientrate, pure dalle queste parti dove operano 115.000 imprese che danno occupazione a 450.000 lavoratori e creano il 2,4% del PIL nazionale. Il mantra è cambiamento. È la periferia contro la città, ve l'ho detto in precedenza, la provincia delle montagne della bassa modenese attaccata al mantovano, dove chi vive sente e si sente dimenticato. Intanto vediamo un'altra voce, un altro paradosso anche questo. Giovanni Savorani è il presidente di Confindustria Ceramica, dice: una campagna come tante altre, imprenditori spaccati alle urne, la nostra regione non va liberata. Uno dei paradossi, degli ossimori gravi sul quale ragionare, è trovare come imprenditori, professionisti, lavoratori che si occupano di realtà proprie diventano in questo caso, per un aspetto conservativo del governo della regione Emilia-Romagna, cioè legata al centro-sinistra, e come allo stesso modo invece piccolissimi artigiani, contadini, lavoratori dipendenti e chi più ne ha più ne metta si buttano verso un cosiddetto tra virgolette cambiamento. Magari questo è già un motivo di riflessione posizione che dovrebbe essere preso dai politici, soprattutto per quanto riguarda il centro-sinistra. Magari spostarsi sempre più a destra non è esattamente la scelta giusta. Allo stesso modo, visto che restiamo in regione, stufi di essere usati per motivi elettorali, il teatro di Bibbiano acclama le sardine. I fondatori incontrano i cittadini e confermano la manifestazione di giovedì per sfidare la piazza leghista. Allora mi sposto sul manifesto. Sardine dopo Bibbiano, ultimo tuffo al Papete Beach. La chiusura della campagna a Milano Marittima è una possibilità concreta. Intanto flash mob fino alla vigilia del voto ieri a Ferrara, dopo quella di Bologna che abbiamo visto. Il flop sovranista sarebbe la svolta per tutto il paese. Vediamo scusate, vediamo se su Repubblica in conclusione troviamo il retroscena, pagina 3. Primo piano, fronte dei porti, il referendum è l'Emilia e vincerò. L'ex ministro finge di esultare. Nonostante ostenti, beh, ovvio, sicurezza, il futuro del segretario della Lega è sempre più incerto, dice Carmelo Lo Papa, pagina 3 di Repubblica, e aggiunge: se finirò davanti ai giudici chiamerò in aula anche Conte e Di Maio, conferma Salvini. Eh sì, bisogna cambiare. Giusto. È come uno che dice: non ci vedo tanto bene, mi metto un dito nell'occhio, non l'ho mai provato, però comunque bisogna cambiare, magari migliora questo. Però ecco, voi comunisti tacete la realtà delle cose, perché leggo dal giornale: i pesciolini rossi odiano i neri, insulti a militanti e Fratelli d'Italia di colore. Questo è un fatto, uno scoop del giornale, c'è solo lui, parola di tal Nadalini di Fratelli d'Italia, che è assolutamente super partes in questa cosa. Beh, ci mancherebbe che... Dunque, il Nadalini italiano di pelle scura offeso solo perché sono di destra. Dice che uno con un spilletta con un pesce sopra l'ha insultato intandogli del negro perché viene dal Brasile. Naturalmente parola sua. Poi chi era questo signore? C'è successo, però il giornale ci fa l'articolo sopra perché faccio politica da tempo e posso dire che nel mio partito non c'è razzismo. In Fratelli d'Italia mai visto razzismo, ma quando mai? No, non è vero. Ma detto questo, forse è più credibile quest'altra denuncia. Arriva dal Carlino verso le regionali: minacciato di morte per un caffè rifiutato. Il barista del Dolce Lucia, che aveva tenuto fuori Salvini, vi va dalla postale. I messaggi: vi devono rompere la faccia fino a farvi crepare. Questo è la... E questo, come dire, carta canta, rimane scritto. Non ce l'ho con lui, dice il barista su Salvini. Lo invito da noi, ma voglio stare lontano dalla politica. Come ho detto altre volte, lui è un bar, non è un poglio da comizio, di nessun comizio, nessuna campagna elettorale. Quindi, insulti, minacce però. Sono giorni d'alta tensione dalla Dolce Lucia, il bar pasticceria di Casalecchio, ho passato alle cronache per aver rifiutato un caffè a Salvini. Non è questo, non è successo questo, però andiamo avanti. Eppure mercoledì scorso il leader della Lega aveva fatto buon viso a fronte agli argomenti con i quali il titolare Gabriele Gandini aveva tenuto fuori centinaia di persone sul marciapiede. Un caffè per 100 persone, insomma, sono un po' dei bracci corti, un caffè con 100 cannucce. Comunque, qui non si programma nessun aspetto politico, eccetera eccetera eccetera. Dovete morire di fame, vi devo rompere la faccia fino a farvi crepare, ha scritto un anonimo odiatore nascosto dietro un indirizzo di posta cifrato e collegato a un dominio denominato guerrillamail.com, ed è una delle tante. E via dicendo, ancora una volta denunciamo questi manganelli mediatici elettronici. Tu parlai di Bibbiano, sì, il fish mob contro la Lega. Assemblea pubblica con oltre 300 abitanti nel paesino al centro dell'inchiesta giudiziaria fatta dalle Salvini, quindi ha chiesto agli abitanti se farlo e detto di sì, queste 300 persone. Non è che va in un bar e porti i suoi 100 amici, chiede alla gente se può entrare in casa sua. Mi sembra anche qui un aspetto di gentilezza se non di civiltà. A Ferrara invece un trenino di 600 persone per chiedere dimissioni di un assessore, quello che voleva comprare i voti, facendo di mettere un altro consigliere della minoranza di sinistra, promettendogli un posto sicuro. Questo è quanto. Ci sarà anche l'ultimo, un fish mob al Papete, perché ricordiamo i balli e i mojito di Salvini quest'estate. Però c'è chi non ci sta con le Salvine. No. Il compagno Casini, che fa parte di quell'area centrista così importante per il divenire del paese, del suo area progressista, perché se non fai col grande centro non si sta, dice il compagno Casini, sempre molto serio: i giovani in piazza è rischioso di seguirli, si fa il gioco della Lega. Certo, e invece inseguiamo la Lega, così la Lega rimane spiazzata. È furbo il nostro Casini. Se lavora bene l'esecutivo andrà avanti. Alle elezioni in Emilia la scelta è Bonaccini o Borgonzone. Dice, ci voleva Salvini per saperlo. Ci voleva Casini. Non è nel nostro interesse che passi la sfida tra Salvini e le sardine. Se i ragazzi riuscissero a sbagliare di lui sarebbe una gran cosa, se per assecondarle Stefano cambia linea è un danno, perché viene fuori una cosa vera, dice ieri Carlino, le sardine sono un problema anche per il PD, adesso gli fa chiaramente gioco, ma dopo le elezioni, comunque vada, devono dare delle risposte. Mi sembra che le risposte sono molto antitetiche a quelle che dicono quelle che parlano le sardine. Insomma, tutto questo ci porta alla pagina di YouTube del Fatto Quotidiano che tu già anticipavi, i pagliacci. E c'è un Salvini questa volta non col cappello da vigile del fuoco, non che bacia una salamella, non che si mangia il grano padano, non che si beve un mojito, non che si fa un barbecue, non che si mette il caprino della Ferrari, ma è un Salvini in fotomontaggio, devo dire la verità, con tanto di cappello da pagliaccio. E questo è la musica di Corredo, non è arrivata adesso perché siamo in tema circense e andiamo subito a fervi. I pagliacci dentro i leoni, allora da Greta, c'è Greta Thunberg che è arrivata, diciamo, a Davos, ne parlavamo prima, e c'è una maggiore consapevolezza, il cambiamento climatico è diventato un tema caldo, ma non è stato fatto nulla, non dice poco, nulla. Le emissioni del CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo, dice Greta Thunberg al forum di Davos. Io vengo ascoltata continuamente, ma la scienza e i giovani non sono al centro del dibattito sul clima. Si deve ascoltare la scienza, le persone muoiono per il cambiamento climatico, prosegue. Anche solo una frazione di grado centigrado nel riscaldamento è importante, i media non lo dicono, ma io insisterò. Questo è quello. E allora anche noi insistiamo e torniamo sul tema della diseguaglianza, sempre parlando di Davos, e ne parliamo di tutta questa questione con Elisa Bacciotti, responsabile della campagna di Oxfam Italia, sentiamo il suo commento. Il nostro rapporto Time to Care evidenzia un mondo in cui le disuguaglianze di ricchezza e di reddito sono costanti e aumentano soprattutto all'interno dei paesi. Di fatto noi oggi viviamo in un mondo fortemente diseguale, faccio un unico flash. Ad oggi in termini di ricchezza il patrimonio delle 22 persone più facoltose supera la ricchezza di tutte le donne, sono più di 650 milioni del continente africano. E ancora di più da un punto di vista di reddito e in particolare di reddito medio dal lavoro. Un lavoratore che appartiene al 10% delle persone che dal lavoro guadagnano i redditi più bassi dovrebbe lavorare circa 350 anni, 3 secoli e mezzo, per raggiungere la retribuzione annuale media di un lavoratore che invece si situa nel 10% più ricco. Quindi un mondo fortemente diseguale, un mondo che si regge anche su una situazione in cui il lavoro viene retribuito poco, retribuito male o anche non retribuito. Pensiamo all'enorme lavoro di cura che nel mondo viene soprattutto effettuato dalle donne e che non viene retribuito, ma che ha un valore pari a quello di 3 volte il mercato dei beni e dei servizi tecnologici. Si parla appunto di più di 10 trilioni di dollari. Lei ha fatto riferimento già 2 volte al tema delle donne e appunto il gender gap è consistente. È consistente soprattutto perché nel mondo il 42% delle donne di fatto non può lavorare perché deve farsi carico appunto di sostenere un lavoro di cura dei propri familiari, anziani, bambini, disabili, e questo lavoro di cura non retribuito, che non viene contabilizzato in nessuna delle nostre economie, è però un lavoro di cui le donne pagano il conto o subito, perché ovviamente per sostenerlo devono accettare lavori meno pagati o lavori part time che quindi riducono la loro capacità di reddito, oppure in futuro, perché lavorare meno significa versare meno contributi e significa quindi andare in pensione con pensioni che probabilmente non saranno dignitose e non consentiranno alle donne di poter vivere tranquille l'ultima parte della propria vita. Questo è un tema importante, è un tema forte anche in Italia. Pensiamo che in Italia più del 10% delle donne non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli, mentre la media europea è il 3,7%, e che sempre in Italia le donne che hanno dei figli, diciamo, sotto l'età dell'adolescenza, quasi il 40% di loro sono state costrette a modificare gli aspetti del loro lavoro, aspetti professionali relativi alla loro carriera o comunque al loro impegno lavorativo, per conciliare lavoro e famiglia. E qui in qua dunque le grandi diseguaglianze di Davos, di genere, di nord, sud, di est, ovest, di tutto, insomma. Ma torno all'Italia in un ping pong che sta tra lo sfruttamento dell'uomo e lo sfruttamento della natura, e allora abbiamo il Sole 24 Ore che ci parla appunto dei paradossi dei rifiuti. Non volendo fare o facendo male la cultura riciclata e produrre meno rifiuti, abbiamo rifiuti 200.000 tir per trasportarli fuori dalla regione privi di impianti. Quindi ciò che diventa magari ecologico in città diventa terrificante nell'ambiente, perché il trasporto di 200.000 tir, immaginate l'impatto ecologico che c'ha sull'ambiente, sull'aria e sul traffico, ovviamente, compresi gli incidenti. Sono più di 200.000 camion, trattiere e compattatori necessari ogni anno per trasportare rifiuti prodotti dalla regione che non hanno abbastanza impianti per smaltirli, e perché per questo motivo li destinano alle discariche o ai termovalorizzatori situati in altre regioni all'estero. Chiaramente il suo 24 ore parla solo di inceneritori giù di lì, ma chiaramente serve anche un altro modo di rapportarci col consumo. Poi, visto che siamo in tema di grandi imperi economici, Ilva, altri 250 in cassa integrazione, Mittal fa infuriare ancora i sindacati. Adesso l'Ilva è un po' fuori dai riflettori, ma la cosa continua a Taranto. Chiusa l'acciaieria, il negoziato col governo è in salita, c'è il Fatto Quotidiano. Quindi vengo all'autostrade, ecco norme dei renziani che salva Autostrade & Company. Dunque Renzi dice: non lo faccio per me, lo faccio per l'Italia. Ora, quale sia il vantaggio per gli italiani? Il fatto che di aumentare tutti gli indennizzi a vantaggio dei concessionari ai danni dello Stato e dell'erario pubblico, deve spiegarcelo solo Renzi. Comunque, Italia Viva vuole abrogare l'articolo che taglia i mega risarcimenti per i signori del casello, perché devono prenderli tutti, visto che sono meritevoli, diamo tutti i soldi più possibili e immaginabili, compreso Toto e Cavio, già finanziatori di Open. E qui torniamo appunto alla Leopold. L'ostacolo vero, il decreto è la Camera dove Italia Viva non è decisiva, ma il Senato però lo sarebbe, quindi è al contempo un regalo ma è anche una solita minaccia di Renzi sul governo presente. Sì, passiamo allora alla pagina degli esteri che mette sotto i riflettori una delle realtà più pericolose e principali, ampio spazio dedicare pubblica a quello che poi porta un controllo anche in Italia per un virus, una mutazione o simile alla SARS, è un virus cinese che fa paura, si può trasmettere da uomo a uomo e a pagina 12, a pagina 13 della Stampa rivediamo questo, il nuovo virus cinese si trasmette tra uomini, l'Italia alza l'allerta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca un vertice d'emergenza, Thailandia ha ricoverato un turista inglese, stretta sui voli dalle zone infette. Parla l'infettivologo, l'epidemiologo Giovanni Rezza. Rezza dichiara: è simile alla SARS, passa attraverso la saliva, va fermato in aeroporto, chi va nelle zone del contagio deve stare lontano da posti sopra. Il nostro rapporto time to care. Sovraffollati e lavare spesso le mani. Qui invece non c'è ancora da temere, ma i controlli chiaramente sono già avviati, soprattutto a Fiumicino. Controlli a Roma, rinviati viaggi a Wuhan. Il ministro della Salute, i casi sospetti vanno isolati e trasferiti allo Spallanzani di Roma. Questo è l'approfondimento che più o meno in copia riporta anche la Stampa. Altre dagli esteri la prendiamo dal Manifesto e andiamo in Brasile. Nel momento più difficile, l'incontro di 600 leader indigeni che dichiarano lotteremo. Era un desiderio che l'89enne leader indigeno Raoni Metukire, tra i più rispettati al mondo, coltivava da anni. Riunire i capi dei popoli indigeni, che sappiamo bene quello che stanno soffrendo per tutto quello che gli viene tolto dalle politiche di Bolsonaro. Beh, al punto di portare questa riunione importante con diversi leader del mondo indigeno che dichiarano lotteremo. Restiamo in Sud America, andiamo in Bolivia, scelta unanime di Morales per le presidenziali in Bolivia. L'ex ministro dell'economia Luis Arce, gradito alla classe media, è il candidato del MAS. Partita dall'Honduras, chiudo questa pagina 10 dedicata al Sud America dal Manifesto. La famosa carovana migrante respinta dalla polizia tra Messico e Guatemala. La decisione di chiudere il confine è stata presa dal governo messicano. Porti chiusi in Libia. Ma siccome sono porti chiusi al petrolio, lo scandalo è generale. Quindi leggiamo: pattugliare Hormuz, l'Italia dice sì. Roma prende parte alla coalizione di volenterosi e guida francese. Questo siamo dunque stavolta, i porti qui stanno nel golfo di fronte all'Iraq. La decisione per ora è politica, invece i porti chiusi in Libia, l'Unione Europea rilancia Sofia, riattiveremo la missione e contestare il traffico di armi. Speriamo che fermi anche le tante petroliere di petrolio contrabbandato dall'ISIS tramite i trafficanti libici con cui anche l'Italia ha trattato, già che ci sono. Comunque questo è il ricatto di Haftar, leggo, è chiara, c'è una Clausi dal giornale scandalizzato. Perché Haftar ha i porti chiusi al petrolio. Questo è insopportabile. Il ricatto di Haftar non firma e blocca tutti i posti di petrolio, a proposito di ricatti. Il generale rifiuta la redistribuzione degli introiti, la ricollocazione verrebbe detto in altri ambienti, decisi a Berlino. Serraj, il paese va verso la catastrofe. Diciamo che c'è già un piede e mezzo nella catastrofe la Libia. Comunque, nel giro di pochi giorni rischi di vedere azzerata l'intera produzione libica. Questo è quello che leggiamo. Poi ho da segnalare questa manifestazione in Virginia, un corteo a Richmond, che è nella capitale della Virginia, di 50.000 persone armate fino ai denti con bazooka, mitragliatori, pistole, fucili in piazza, alla sfida della Virginia, raduno contro un progetto di legge che limita l'uso delle armi. E sono presentati appunto, noi andiamo in piazza con le sardine, il nostro cartoncino, il palloncino, siamo patetici, quelli in piazza vanno come armati da Rambo. E dice che la polizia molto prende in forza, però era un po' in ambascia, aveva paura, perché se quello lì non è un corteo, è un esercito armato. Quindi, ma leggiamo dall'America: allarmi, sinistri presagi, ma stando agli ultimi aggiornamenti nella notata italiana, la manifestazione di Richmond pro armi si è conclusa senza incidenti, e gli incidenti sono incidenti a granate. Fino alle 8 di ieri mattina migliaia di persone sono arrivate nella capitale Virginia da ogni parte dell'America, hanno viaggiato nella notte in macchina nei suoi autobus, molti loro portandosi la colazione a sacco e pistole, fucili automatici, elmetti, giubbotti, antiproiettili. Verso mezzogiorno, secondo le stime dell'autorità, erano circa 50.000 nella piazza. Allora, in quei casi la polizia non è che dice sono in 2000, perché si arrabbiano. Sta più prudente nelle cifre. Comunque, ad attenderli un incremento imponente di polizia a misure di sicurezza rigidissime, adottato con lo stato di emergenza dichiarato giovedì scorso dal governatore Virginia, il democratico Ralph Nader. Nel frattempo c'era anche qualche preoccupazione alla vigilia, perché l'FBI ha arrestato tre estremisti, chiamano estremisti, tre nazisti della Georgia, con un piano d'attacco. E questo era quello che arriva dall'America. Beh, allora mi collego alla cronaca locale passando dalle regionali, da Bologna, perché vincerà il centro-sinistra, la dichiarazione di Federico Geremica, però la prendo dalla stampa. Dalle Sardine la spinta vincente per Bonaccini, la risposta di Giovanni Orsina, perché vincerà il centro-destra, ma Santori può dare l'assist a Borgonzoni. Queste sono le realtà dalla stampa che aprono la cronaca locale di Repubblica Bologna. Sardine, via libera, saranno in piazza giovedì alle 19, ieri sera assemblea pubblica, i cittadini, i ragazzi, andate avanti. Avanti, siamo a Bibbiano, Salvini fa la giunta, ci sarà un assessore, terzo settore e cooperazione. Insomma, quello che vediamo tra le elezioni regionali, tra la stampa e Repubblica, avvicinandoci a Bologna, scintille tra Bonaccini e Borgonzoni, oggi si sfidano a duello su ETV. A pagina 3 troviamo l'approfondimento. Le Sardine dicono che non meritiamo di essere ascoltati ed è un concetto distorto della democrazia, dice la Borgonzoni, l'avvocato dei falsi permessi ai migranti, sta col governatore. Il PD dovrebbe prendere le distanze da lui. Bonaccini, Santori ha ragione quando dice che devo essere più empatico, se vincerò terrò conto del movimento per la giunta. Lo scerbo, mai conosciuto, mi appoggiava e io che posso farci? Piuttosto illegale, è stato ospite del centrodestra. Questo passarsi, il lo scerbo. Salvini e Sardini, piazze contro piazza, l'ex ministro attesa a San Giovanni il voto sulla Gregoretti mentre sfilavano i contestatori e si è sbilanciato sull'ipotetica giunta. Faremo un assessore al terzo settore e alla cooperazione. Questi insomma sono ampi spazi dedicati al caso Sardine in relazione a Bologna e alle regionali. Andiamo a pagina 7, dove invece vi è una cronaca e un approfondimento sui servizi segreti, P2, terrorismo, tutte le trame oscure di Bellini. È la primula nera dell'ultradestra, indagato per concorso in strage della Procura Generale. Nell'inchiesta che punta ai mandanti riemergono i nomi di Gelli, Cavallini e delle Chiaie. Altre argomentazioni che passano invece per la cronaca locale, passante la ministra De Micheli, cantiere al via, il cantiere entro l'estate. Stiamo parlando dell'assessore Monesi, finora si è perso tempo, bene se il governo accelera. Vi è un ingorgo in un'immagine consueta di traffico in tangenziale, cose a cui siamo purtroppo abituati. Chiudiamo la cronaca locale avvicinandoci al termine di questa nostra rassegna stampa, sempre seguendola dalle pagine di Repubblica, eccola qui, le pagine si attaccano, dove invece prima dello sport troviamo i volti dei candidati ai busti per, e appunto le lettere che arrivano portano questa attenzione per insomma dare degli identikit agli autisti e per dare una realtà al trasporto pubblico, soprattutto se pensiamo a come è cambiato negli anni un'eccellenza a Bologna, la famosa ATC, e come si è, attraverso questa indagine a pagina 11 su Repubblica, trasformata nel tempo tra velocità di trasporto, tra cambiamento dei mezzi, cambiamento dei tragitti. Insomma, beh, è interessante anche vedere questa che era stata un'eccellenza e come è cambiata nel tempo. A Bologna è arrestato l'avvocato dei migranti. Questo è un titolo che rimbalza su tutti i giornali. La fabbrica dei permessi facili, arrestato l'avvocato dei migranti, allo scerbo fino a 500 euro a pratica, in casa trovati 200.000 euro. Nel 2019 c'era candidato a sindaco a Malalbergo. Il sistema delle false residenze, 41 indagati, anche proprietari di casa. E subito allora, naturalmente, se Carlino fu candidato sindaco, ora tutti lo scaricano. Era candidato sindaco dell'amministrativa del 2019 a Malalbergo, l'avvocato Fabio Lo Scerbo, a capo della lista civica multietnica di centro-sinistra, la nuova Malalbergo. Ora, in vista delle regionali, sui social condivideva una propria foto con la scritta «Io sto con Bonaccini». Immediatamente si è scatenata la polemica su Facebook. E allora il leader Carlo Salvini, che schifo, arrestato a Bologna per giro di permessi falsi clandestini, beccato con 200.000 euro in contanti in casa, bel esempio di campione della sinistra buonista dei porti aperti. Pronta la replica del governatore uscente Stefano Bonaccini. Fake news, l'avvocato non ha nulla a che fare con me o col PD, non è stato tenuto dal PD alle ultime amministrative, viceversa faceva convegni con la Lega, con esponenti di Lega e di Fratelli d'Italia, se ha espresso il suo sostegno per me non lo so, non so chi sia, che distruttori così non ne voglio. Interviene anche la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini. È un campanello d'allarme fortissimo. Il governo riflette sulle politiche di immigrazione e accoglienza non più sostenibili. Per i 5 Stelle invece afferma la consigliera regionale Silvia Piccinini, che definisce la vicenda l'ennesimo capolavoro della destra in Emilia Romagna. Insomma, qui vedete voi, visto che ormai i candidati vanno da una parte all'altra con una grande facilità, si cambia casacca estremamente, è facile dire che uno è sempre colpa di quell'altro. Detto questo, noi ci congediamo 10 e 30 minuti, 29 ad essere più sinceri. L'appuntamento domani, sempre stessa ora, ciao a tutti.